in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Ancora per questa settimana, benché la maggior parte dei paesi occidentali abbiano ormai fatto il loro ingresso nella fase 2, potremmo chiamarla quasi rassegna internazionale pandemica o pandemia, perché la maggior parte dei temi trattati su tutti i quotidiani, sugli organi di stampa internazionali, su internet, sono ancora legati alla pandemia. E inizierei proprio da una notizia che è arrivata dagli Stati Uniti venerdì, quindi ieri, appena ieri, e riguarda la maratona di Boston. La maratona di Boston è una delle 4 maratoni più importanti al mondo, è aperta anche a corridori non professionisti, ma è anche una delle maratone che i corridori professionisti usano per allenarsi e vengono fatti partire prima. È 124 anni che si tiene, è una delle maratone più veloci al mondo. Tradizionalmente si tiene in aprile, ovviamente era stata spostata a settembre e adesso è stata proprio annullata. Ne dava notizia naturalmente il Boston Globe per primo, che è il quotidiano di Boston, ma poi la notizia è stata ripresa da tanti altri giornali. Fa molto effetto, insomma, che questo evento sportivo sia l'ennesimo evento sportivo, in questo caso non rimandato ma annullato per via della pandemia. A proposito di pandemia, vi segnalo un interessantissimo intervento di Timothy Garton Ash, che è un giornalista, ma soprattutto, o meglio, scrive spesso per i giornali, ma è soprattutto uno storico e si è occupato in particolare di Europa, e l'articolo pubblicato da Vox Europe si intitola proprio "Che Europa vogliamo dopo la pandemia?", perché adesso stiamo ascoltando, abbiamo sentito il primo quadro generale di questo Recovery Fund, che potrebbe, che poi è stato subito ribattezzato Next Generation Fund, quindi proprio per dare l'idea, dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che dà l'idea di qualche cosa che proietta l'Europa nel futuro. Vedremo che contorni avrà, sicuramente tutti lo considerano una svolta nell'impostazione dell'Europa, però intanto, al di là di quello che deciderà la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo e i vari governi e parlamenti nazionali, forse, come fa Timothy Garton Ash, è giusto chiedersi noi come cittadini europei che cosa vorremmo davvero al di là degli interventi economici. Quindi è molto interessante. Tra l'altro c'è anche la possibilità per chiunque senta questo desiderio di mettere il proprio racconto a questo indirizzo, che è European, quindi europeanmoments, tutto attaccato.com. Torniamo invece a questioni molto più pratiche, che in realtà sono solo leggermente toccate dalla pandemia, perché prima che iniziasse questa emergenza sanitaria, economica e sociale c'erano naturalmente tante fusioni in ballo, fusioni e acquisizioni. Una che riguarda in particolare l'Italia è la offerta l'OPS di Intesa San Paolo, che è la più grande banca italiana, su UbiBanca, e sapete che non è stata presa bene dagli azionisti di UbiBanca, e questa settimana il Chief Governance Officer di Intesa San Paolo, che è una figura creata da quando la governance, cioè il modo in cui un'azienda gestisce al suo interno gli incarichi, in particolare quelli apicali, è stata curata questa figura. Per Intesa San Paolo è Paolo Grandi, ha dato un'intervista a Börsen-Zeitung, che è un quotidiano economico finanziario tedesco, e ha detto: "Siamo convinti di aver promosso un'operazione con una valenza strategica per l'Italia e un grande significato per il sistema bancario italiano-europeo". E ha detto, perché appunto essendo un tipo di operazione che richiede l'adesione degli azionisti, dice: "Siamo intenzionati a portarla a termine anche con adesioni che superassero anche solo di un punto percentuale la percentuale necessaria, che è del 50%, e vedremo, perché appunto è un po' una questione che è restata sospesa, anche perché Intesa San Paolo, come tutto il sistema bancario italiano, è impegnato in questo momento a dare il contributo per uscire da, o per tamponare questa emergenza economica, anche erogando, come sappiamo, per esempio il prestito, diciamo, più famoso è quello che verrà dato al gruppo FCA con garanzia al 75% di SACE, cioè dello Stato. A proposito di coronavirus, una notizia un po' più curiosa, ma che ci fa anche capire come stia continuando a cambiare la medicina, grazie alla tecnologia. Le Monde ha parlato di questo robot che si chiama Dr. Car. È un robot progettato, pensate, in Senegal per il trasporto di medicinali e pasti ai pazienti che hanno contratto il coronavirus, che sapete devono essere, lo abbiamo visto dalle immagini dalle quali siamo stati bombardati nei mesi scorsi, delle terapie intensive. Dei reparti di terapia intensiva, e sappiamo che anche i parenti più stretti delle persone ricoverate per coronavirus non potevano avvicinarsi, quindi il robot chiaramente non è a rischio coronavirus e quindi viene utilizzato. A proposito, abbiamo detto di fase 2, come avrete sentito, c'è anche chi tra i virologi, che peraltro sappiamo, virologi, epidemiologi, anestesisti, medici specializzati in malattie dei polmoni, sapete che non sempre sono d'accordo. E ancora una volta, in questa seconda fase, c'è chi pensa da quasi per certa che ci sarà una recrudescenza del virus, una seconda ondata. C'è addirittura chi pensa, ed è il caso della Spagna, che in Spagna questa seconda ondata potrebbe anche arrivare prima dell'autunno, perché sapete che così come l'influenza viene definita un malanno stagionale, perché in generale colpisce appunto all'arrivo dell'autunno-inverno, che nel nostro emisfero corrisponde a temperature più fredde, mentre appunto in estate non ci si ammala di influenza, e quindi semmai in Italia si è parlato di una seconda ondata, ma proprio appunto in autunno o comunque dopo l'estate. In Spagna il paese invece dice che potrebbe già esserci questa seconda ondata, ma la Comunità di Madrid, cioè la regione amministrativa che comprende la capitale e che è stata, così come in Italia l'epicentro è Milano e la Lombardia, in Spagna sono state Madrid e la Comunità di Madrid, i responsabili hanno detto: però siamo pronti, abbiamo stock di mascherine, di altro materiale di protezione personale, soprattutto per il personale sanitario, abbiamo allertato personale appunto aggiuntivo, insomma vedremo. Naturalmente speriamo che una seconda ondata non ci sia né in Italia né in Spagna né in alcun altro luogo. A proposito di riflessioni come quella che fa Timothy Garton Ash sugli effetti, diciamo, psicologici, culturali, oltre che economici e sociali della malattia, forse ricorderete, perché in Italia l'aveva pubblicata Repubblica questo intervento 2 mesi fa su Haaretz, che è un quotidiano israeliano disponibile anche in inglese. David Grossman, che è uno dei più importanti scrittori israeliani contemporanei, aveva parlato, aveva fatto alcune riflessioni su come il coronavirus ci avrebbe trasformato. Su questo naturalmente hanno parlato tante persone di tante professioni diverse, profili culturali diversi, e forse da Grossman, leggendo Grossman, si è ispirata anche Noa, la cantante israeliana, e sempre Haaretz dà conto di questo annuncio che lei ha fatto peraltro sui social network, che leggendo questo racconto, queste suggestioni di Grossman, le è venuta voglia di trarne delle canzoni, che è il suo modo artistico di esprimersi. E tra l'altro in Israele anche è iniziata la fase 2, una fase 2 anche lì molto criticata da alcune parti, perché accelerata nonostante contagi e vittime siano ancora molto alte. A proposito di mortalità, Financial Times ha dato conto del fatto che l'eccesso di mortalità nel Regno Unito, cioè facendo il confronto tra la mortalità di questo periodo del 2020 con quello del 2019, cioè, si registra appunto questa differenza, e quella del Regno Unito è un record assoluto. E da qui si è tornati naturalmente ad aprire il dibattito sul tema della cosiddetta immunità di gregge, cioè la possibilità che quando il virus si diffonde a sufficienza, un sufficiente numero di persone sviluppano anche un'immunità, e quindi alla fine è il gregge, cioè la popolazione, a essersi immunizzato a livelli che non rendono più pericolosa l'infezione, in questo caso l'infezione da coronavirus. Ma vedremo. vedremo, perché su questi e su tantissimi altri temi dovremo, credo, aspettare ancora tanti mesi, se vogliamo farlo in onestà e in buona fede, per giudicare le scelte dei vari paesi. Concludo con un articolo che mi ha divertito moltissimo e che non posso non segnalarvi. È apparso su The Atlantic, che è un mensile americano, tradotto dall'edizione da Internazionale, e lo trovate sul numero in edicola da ieri. L'ha scritto Marina Coren, tra l'altro Internazionale dedica la copertina all'altro grande tema importantissimo della corsa ai vaccini, ma questo articolo si intitola I gatti che disturbano le missioni spaziali, perché come sappiamo con la pandemia molti di noi, tra questi anche gli ingegneri spaziali della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea, hanno lavorato da casa e ci sono stati alcuni casi, perché pare che gli ingegneri spaziali abbiano una predilezione in fatto di pet per i gatti, di gatti un po' impertinenti che, così come per altre persone è successo con i bambini di casa, si sono affacciati agli schermi e hanno come mostrato la loro curiosità. Del resto, curiosity killed the cat, si dice in inglese, per quello che stavano facendo i loro compagni, gli ingegneri spaziali con i quali dividono la casa. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.